Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Come promesso, già ieri, torneremo a parlare del caro traghetti. Non si placa infatti la polemica, avremo il nostro ospite. Oggi dovremo farcela un rappresentante delle tre principali compagnie sotto accusa da parte dell'antitrust. Mi riferisco a Mobilize e Vincenzo Onorato. Per quello che riguarda il tema invece, i temi più internazionali, segnalo che oggi c'è un recupero complessivo delle borse, non sufficiente a riequilibrare il calo di ieri. Parigi più 1%, Francoforte più 0,70, Londra più 1,20%, l'America più 0,20%. L'euro è in leggero recupero, ma sempre più debole rispetto alla media delle ultime settimane, a 1,42,54. Milano guadagna meno delle altre borse, lo 0,20%. Si muove il Banco Popolare, che guadagna l'1,15%, Diasorin più 1,70%, ST Microelectronics più 1% come Campari, Tod's, Finmeccanica più 0,90% come anche Enel e Telecom Italia. Invece perde, e non poco, l'Automatica, meno 3,65%, Exor, quindi la controllante di Fiat, meno 2%, UbiBanca meno 1,60%, Mediaset meno 1,5%, Unicredit perde lo 0,70%. Di cosa parleremo oggi? Parleremo anche di giovani, un altro tema che avevo promesso ieri dopo il rapporto del Censis, di cui daremo conto. Giovani in via di estinzione, 2 milioni in meno in 10 anni, è il numero dei giovani che sono mancati all'appello, nel senso che il Censis segnala, oltre a un calo diciamo proprio demografico, anche dei giovani sempre più sfiduciati e impigriti, primi in Europa per inattività volontaria, cioè chi volontariamente non cerca lavoro, non studia, non si mette in gioco. Ancora vedo molti sms già sull'intervista che abbiamo fatto ieri ai sindaci del paese in provincia di Pisa, dove l'IKEA, dopo quasi 6 anni di tentativo, ha mollato il colpo. Devo dire che non torneremo sul tema. Il neo sindaco, sempre del PD, ha detto che in sostanza vorrebbe, si augura di poter riaprire i contatti con l'IKEA. Il tema è anche delle mancate concessioni, insomma i 5 anni e passa di attesa dell'IKEA per sapere se può o no aprire in provincia di Pisa un suo stabilimento. Invece torneremo su altri temi, mi riferisco al dato anche sulla produzione industriale, sull'export. Ricorderete che lunedì è uscito un dato sull'export, in realtà passato abbastanza inosservato, era il giorno delle elezioni, è un export che è cresciuto del 14% a marzo rispetto a marzo del 2010. Questo dato lo si evince anche dai conti di un grosso gruppo, il numero uno al mondo nella chimica, si chiama BASF, è tedesco, in realtà è presente in 90 paesi, compresa l'Italia. Di questo parleremo più avanti. Ripeto, 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Un tassista in particolar modo arrabbiato per l'intervento di ieri di Abravanelle e mio sulle liberalizzazioni. Ripeto una volta per tutte, non è che le liberalizzazioni sono tanto quelle dei taxi, le liberalizzazioni sono altre, sono settori protetti che non vengono messi in concorrenza, ne abbiamo parlato moltissime volte, per cui non prendete tutto a livello personale. Comunque andiamo avanti con le notizie. L'oro è in rialzo, $1,490 l'oncia, sale anche l'argento a 34, siamo sotto i livelli da record. Comunque il petrolio è a $98,13 al barile, e questo mi permette anche di ricordare che quando parleremo poi del caro traghetti, dal 70 al 150% l'aumento dei prezzi a luglio-agosto nei traghetti per la Sardegna, la spiegazione delle compagnie che marittima è in sostanza il prezzo del petrolio. A noi però risulta, il calcolo è molto facile, che il prezzo del petrolio adesso in euro sia 69 euro con un cambio 1,41, con un petrolio a 98 dollari come oggi. Dicevo 69 euro il barile. Nel 2008, con un rapporto di cambio 1,58 e con un prezzo del petrolio in dollari a 148, il petrolio costava in euro 93 euro al barile. Allora, non si capisce perché i traghetti costano di più adesso che nel 2008, se il petrolio costava 93 euro nel 2008 e 69 euro adesso. Tutto qua. Tra l'altro, oggi, e lo scrive il quotidiano Energia, non un'associazione dei consumatori, nonostante stiano crollando i prezzi, crollando è grosso, ma insomma da 110 dollari al barile a 98 si è passati nei prezzi del petrolio sui mercati internazionali, le compagnie petrolifere non sembrano accorgersene, e qui ci risiamo, lasciano fermi i listini. Lo scrive, ripeto, il quotidiano Energia, che attraverso un monitoraggio registra come non vi sia alcuna variazione dei prezzi raccomandati dalle pompe di benzina, mentre complessivamente sul territorio, leggo testualmente, si segnalano modeste oscillazioni al ribasso. Le quotazioni internazionali, in questo caso parliamo di benzina e diesel, non di petrolio, proprio di quello che costa a livello internazionale la benzina e il diesel, sono scese a 978 dollari la benzina e 930 dollari a tonnellata sempre il diesel. Siamo ai minimi quanto a prezzo internazionale della benzina e del gasolio da marzo, da fine febbraio, inizio marzo. E questo, diciamo, nonostante ci siano 4 centesimi nel frattempo che sono aumentati come prezzo della benzina, non ha prodotto alcuna modifica dei prezzi. La media dei prezzi praticati va da 1,577 euro della ES a 1,587 euro di IP e Shell. Per il diesel da 1,441 euro a 1,450 euro. Insomma, lo scrive il quotidiano dell'energia, prezzi ai minimi da febbraio-marzo, benzina ferma ai massimi. Altro non posso dire, è un tema che lo conoscete, il mio sconforto su questo tema. Vedo altri messaggi sulla liberalizzazione delle professioni, degli ordini professionali. Allora, abbiamo sempre detto che non ha senso non mettere in concorrenza gli ordini professionali. Che senso ha reintrodurre le tariffe minime per gli avvocati? Che senso ha opporsi ai punti vendita di farmaci senza ricetta nei grandi magazzini? Tutto questo ha un senso solo per chi appartiene agli ordini professionali, non per il cliente. Su questo la nostra posizione è da sempre identica e non cambia. Piaccia o non piaccia agli avvocati, ai giornalisti, ai farmacisti, ai notai. Va bene, andiamo avanti. In Germania nel frattempo arriva 1 miliardo di euro per le auto elettriche. La Germania è un altro paese, chiaramente. Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un pacchetto di aiuti da 1 miliardo di euro per sviluppare le auto elettriche. Angela Merkel punta infatti ad avere 1 milione di auto elettriche sulle strade entro il 2020 e 5 milioni di auto elettriche entro il 2030. La vicenda Strauss-Kahn, è chiaro che gli Stati Uniti a questo punto incalzano, lo stesso segretario, ministro del tesoro, il segretario al tesoro Timothy Geithner ha detto che insomma non è nella posizione per guidare il Fondo Monetario Internazionale. Su questo, insomma, fosse solo quello il problema di Strauss-Kahn in questo momento, gli andrebbe anche bene. In realtà, al di là della banalità di Timothy Geithner, ci permette il segretario del tesoro americano, il vice portavoce del governo tedesco Christoph Stigmans oggi ha ribadito la posizione della Germania, ossia che la direzione del Fondo Monetario Internazionale deve restare a un europeo. E poi la Banca Centrale Europea sulla Grecia ha detto che con la ristrutturazione del debito le conseguenze sarebbero peggiori e quindi il rimedio sarebbe peggiore del male. Ancora, a dirsi contrario a una ristrutturazione, quindi rimodulazione del debito greco, uno dei membri del Consiglio della Banca Centrale Europea, Lorenzo Binismaghi, oggi ne ha parlato a Milano. Ascoltiamo questo passaggio su una su un'ipotesi di rimodulazione del debito greco morbida, non traumatica. Io ho bocciato l'ipotesi di soft restructuring perché non so cosa vuol dire. Nessuno sa cosa vuol dire e bisogna in questo momento di tensione, di fibrillazione dei mercati finanziari evitare di lanciare idee, come spesso si fa in alcuni ambienti, come se fossero formule magiche. Per cui prima di lanciare questo tipo di idee bisogna stare molto molto attenti, perché poi i mercati interpretano le parole e le intenzioni dei governi come nel modo da coprirsi da qualsiasi rischio. Questo è direi il problema numero uno ora come ora. Come affrontare, come la Grecia deve affrontare il problema? La Grecia è un paese ricco. Molti economisti dicono che la Grecia non è solvent, ma la Grecia è solvent. Basta vedere come si calcola, è un'azienda, si guardano gli attivi, si guardano i passivi, si guarda il patrimonio. Il patrimonio della Grecia è oltre il 100% del PIL. In termini di privatizzazioni che possono essere fatte nel giro di pochi anni, rapidamente è oltre il 25% del PIL. Certo, non è facile politicamente, ma l'alternativa qual è? È quella di non avere poi soldi per pagare i salari dei dipendenti pubblici, non avere i soldi per pagare le pensioni, cioè il default argentino. Così Binismaghi, che chiaramente non è intervenuto sulle polemiche in cui i francesi vorrebbero trascinarlo. Anche ieri il ministro dell'economia francese Christine Lagarde ha detto a questo punto sarebbe opportuno che Binismaghi lasciasse posto a un francese, visto che sarà Mario Draghi il presidente della Banca Centrale Europea, due italiani sarebbero troppi. Binismaghi ha fatto notare che il suo mandato scade nel 2003 e io ho fatto notare molto più modestamente che immaginate il contrario, immaginate se noi avessimo 2013, chiaramente. Immaginate se gli italiani avessero fatto una richiesta simile nel caso di un presidente francese, di un consigliere francese. C'è un po' di nervosismo in Francia, ma andiamo avanti. La sfida per il componente della Banca Centrale Europea, Lorenzo Binismaghi, è risanare i PIGS, ossia Grecia, Irlanda e Portogallo in questo caso. Sentiamo anche questo passaggio. La situazione delle finanze pubbliche di alcuni paesi, naturalmente Grecia, Irlanda e Portogallo sono i casi più evidenti, è la sfida più grossa del mondo occidentale, cioè risanare nei paesi che hanno avuto un eccesso di indebitamento oppure dove la finanza pubblica ha dovuto sopperire alle difficoltà della finanza privata. Questa è la sfida, diciamo, dei prossimi anni. Sfida che sulla carta ha delle soluzioni tecniche molto semplici. Diciamo, l'esperienza del passato ci dice che c'è un solo modo per risanare le finanze pubbliche, è adottare delle misure molto rigorose, molto restrittive, dal primo anno in poi, front-loaded, come si dice, per ridurre la spesa pubblica, riequilibrare la tassazione e ridurre il più presto possibile il disavanzo pubblico. E poi un ultimo commento, questa volta il presidente della Consob, mi riferisco a Giuseppe Vegas, che ha detto: la bancarotta di uno dei paesi periferici dell'area euro, Grecia, Portogallo, Irlanda, potrebbe portare con sé un rischio di contagio sul debito di altri paesi con ripercussioni simili al crack di ed effetti depressivi simili al crack di Lehman Brothers. E poi parleremo nella seconda ora anche di alcune dichiarazioni europee. Olli Rehn, il commissario europeo agli affari economico monetari: la ripresa è troppo lenta, bisogna ristrutturare il debito dei vari paesi. Comunque, per quello che riguarda invece primo tema di apertura, ci occupiamo di giovani, alla luce anche della fotografia, devo dire abbastanza impietosa, scattata ieri dal Censis. Mentre vedo che c'è chi ci chiede, insomma, ci può fare qualche esempio di liberalizzazioni in cui si evince vantaggio per il cittadino? Beh, tutti i settori in concorrenza, uno su tutti, la telefonia. È chiaro, ieri molti hanno scritto sulle assicurazioni. Allora, non siamo noi a dirlo, è l'antitrust, è stato l'antitrust, è stata anche la Corte di Cassazione. nell'accusare negli anni passati, 2003 se non ricordo male, alcune compagnie di assicurazione di cartello. È chiaro che nel mondo assicurativo sulle polizze RC auto c'è un piccolo problema: sono obbligatorie, allora è difficile mettere diciamo, in vera concorrenza un settore quando tu sei obbligato comunque a sottoscrivere una polizza. Ma pensate, la telefonia è da 10 anni che assistiamo a prezzi in calo in quella che è l'offerta base della telefonia, quindi le chiamate in voce. Pensate anche a tutti i settori come l'elettronica da consumo che sono in concorrenza tra loro, ce ne sono tantissimi. I settori ingessati no. Vabbè. Ancora e poi basta, sui farmaci, attenzione, la critica andava al disegno di legge che vorrebbe eliminare quanto introdotto dalle lenzuolate di Bersani, ossia la possibilità di aprire dei corner, degli angoli per prodotti farmaceutici non a ricetta, chiaramente, farmaci generici, nei supermercati e in altri punti vendita. L'associazione dei farmacisti si è sempre detta contraria, i punti vendita sono stati introdotti, si vorrebbe tornare indietro, analogamente a quanto fatto con le tariffe minime degli avvocati. Qualcuno mi deve spiegare perché un avvocato deve avere una tariffa minima per forza. Se un avvocato vuole offrire 30 euro alla pratica perché è giovane e punta su persone poco abbienti, potrà essere libero di farlo? No. E i notai e il resto. I notai come sono fatti esistono solo in Italia, anche qui. Qualcuno mi spiegherà un giorno il perché. Comunque, la crisi economica colpisce anche le nozze. Questa è l'agenzia, io ve la leggo. 30.000 matrimoni in meno in 2 anni. Un 6% in meno rispetto a una media annua dell'1,2% negli ultimi anni di crescita. Pensate che nel 2009 si sono celebrati 230.000 matrimoni, nel 2010 poco più di 217.000, nel 2008 erano 240.000. Sono le prime nozze in calo, tra l'altro sono l'85,7% nel 2009, e in tutte le aree del paese. Chi analizza questi dati ritiene che la crisi economica, visto anche il costo del matrimonio in molti casi, abbia inciso anche sulle nozze. In tutto questo poi arriva, dicevo, la fotografia del Censis sui giovani sposati o non sposati. Siamo primi in Europa, purtroppo, in Italia, per inattività volontaria. Nell'11,2% dei casi i giovani non sono interessati a lavorare o a studiare, quelli che non studiano e non lavorano. Il dato è 3 volte superiore alla media europea, che è del 3,5%, e di paesi come la Francia e la Germania, che hanno il 3,5%. In Inghilterra addirittura sono solo l'1,7% i giovani che né studiano né lavorano. Si chiamano NEET, Not in Education, Employment or Trading, per essere proprio corretti. E da noi toccano punte in alcune aree del 17%. E poi il dato che ci ha fatto cascare un po' le braccia, cioè in Italia lavorano più i diplomati in proporzione chiaramente che i laureati. Solo il 70% dei laureati tra 25 e 34 anni lavora, contro una media europea dell'84%. Al contrario, nella stessa fascia di età lavorano i diplomati, quasi il 70%, 67 contro 70%. Ecco perché ci ha interessato e accogliamo con interesse quello che è successo lo scorso weekend a Milano, la Brain Calling Fair, la fiera della chiamata dei cervelli, potremmo tradurre in maniera un po' impropria, delle idee, dei talenti. 9 imprese multinazionali hanno vagliato per 2 giorni non tanto i curricula dei candidati, ma i loro progetti di business. Ho chiesto a centinaia di ragazzi di portare dei progetti e le imprese li hanno valutati. Ha seguito questi 2 giorni il nostro Sergio Nava. Un progetto di business anziché un curriculum è l'idea alla base della seconda edizione della Brain Calling Fair, la fiera delle idee e dei talenti che ha avuto come teatro nei giorni scorsi Milano. Oltre 1 migliaio le idee inviate agli organizzatori che le hanno girate alle 9 imprese, quasi tutte multinazionali presenti. Il bilancio finale di questa edizione offre numeri interessanti: 1100 progetti presentati, la metà dei quali convocati alla fiera per dei colloqui vis-à-vis con i direttori di risorse umane. Come hanno reagito a questa sfida le aziende e i giovani talenti che hanno partecipato? Simone Crolla, consigliere delegato dell'American Chamber of Commerce, che ha organizzato la Brain Calling Fair. In effetti c'è più rigidità, logicamente, da parte delle aziende ad accettare di ricevere i progetti, di doverli poi incontrare e ascoltare, perché il campo delle human resources è stato sempre gestito diversamente e quindi c'è un po' di fatica, ma il messaggio sta passando e bene. Da parte dei giovani un entusiasmo incredibile che mi fa dire che questo paese ha un potenziale di talenti e quindi di capacità anche operative e imprenditoriali inespresso, al quale bisogna dare una risposta. 9 le aziende presenti, come dicevamo, tra queste anche Martini e Rossi, Massimo Giuliberti, direttore delle risorse umane. In questa seconda edizione noi abbiamo pensato di dare un briefing alle persone che volessero mandare dei progetti e abbiamo impostato il briefing sulla responsabilità sociale. La nostra azienda investe molto su quello che è un attento consumo dei prodotti alcolici, ovviamente, e recentemente ha ingaggiato un testimone d'eccezione nella persona di Nadal, il grande tennista, e abbiamo pensato di proporre questo tema ai progetti innovativi e alcuni sono risultati molto molto interessanti. Nel nord-est opera invece Eurotech, azienda italiana che investe sull'innovazione e che punta tutto sul talento. Antonio Abramo, Research Manager di ETH Lab, il laboratorio creativo di Eurotech. Devo dire, ci sono proposte che hanno certamente una valenza, che è quello che Eurotech cerca, sia tecnologica in termini di prodotto ipotizzabile, ma anche in termini di bisogni e di opportunità anche sociali, quindi certamente interessante. I numeri della seconda edizione della Brain Calling Fair dimostrano il potenziale di idee presente tra i giovani. La maggior percentuale di progetti è giunto proprio dalla fascia dei ventenni, ben 4 su 10, seguiti dai 30-40enni, quasi 1 su 3. Il 27% di loro ha una laurea e il 14% una qualifica superiore. Quest'anno il tema che ha fatto da sfondo all'edizione è stato quello della fuga dei cervelli dall'Italia e di come trattenere l'enorme potenziale di giovani talenti che si formano nella penisola, facilitando anche attraverso questa fiera delle idee il contatto con le aziende, alle quali non è stato presentato un curriculum, ma per l'appunto un progetto. Di fronte agli stand delle aziende presenti abbiamo incontrato alcuni dei giovani venuti a presentare le loro idee. Così ce le hanno raccontate. Giuseppe, modenese di 33 anni. Sono venuto qui per presentare alcuni progetti per Unicredit, per Sisal e per Pepsi Italia. Per Pepsi è un format che riguarda la ristorazione, è un format che riguarda i locali alternativi. Per Unicredit invece è un concept che riguarda i risparmi. E così anche per Sisal sono dei format che riguardano il gioco unito ai risparmi. Fabio, milanese di 27 anni. Abbiamo un progetto nel campo dell'informatica, in particolare è un progetto di un sistema di sicurezza per gli individui in spostamento sul territorio, basato sull'utilizzo di diverse tecnologie già note, tra cui GPS, social networking e SMS. Abbiamo avuto una buona idea che può avere dei buoni effetti, secondo noi, sulla società e anche qualche risvolto economico. Bruno, siciliano di 27 anni. L'ambito è quello delle energie rinnovabili, nell'utilizzo di particolari materiali per creare energia che teoricamente dissipiamo ogni giorno senza riutilizzarla. Muovendosi nel modo giusto e con i contatti appropriati, magari qualche chance viene fuori. Federico, 22enne di Firenze. Presentiamo un'idea imprenditoriale relativa, diciamo, a un sito internet. Essere riassunta, diciamo, in breve termine. Ma la presenterete a più aziende o a una in particolare? No, solo a Boston Consulting Group. Sicuramente l'opportunità di arrivare a presentare un progetto direttamente in un'azienda di consulenza è una grande opportunità per uno studente. Francesca, 29 anni, di Milano. Portiamo un progetto ecosostenibile sull'acqua, un progetto che ha un approccio innovativo al problema dell'acqua, perché sfrutta l'idea del pensiero complesso e quindi in collaborazione con le università cerca di creare un gruppo di lavoro che avrà come obiettivo quello di trovare una soluzione innovativa al problema acqua. Che impressione avete dell'Italia sulle opportunità che dà proprio anche ai giovani? È un paese che è in grado di valorizzare il talento, la creatività, l'innovazione? Ci potrebbe essere qualcosa di più, diciamo. Questa è un'ottima iniziativa, tra l'altro mi sembra organizzata la Camera di Commercio americana, quindi diciamo che l'Italia potrebbe fare meglio. Allora, grazie a Sergio Nava, anche perché quando poi uno prende il dato complessivo del Censis sui giovani un po' si demoralizza, ed era importante anche ricordare che ci sono giovani, sbagliatissimo sarebbe fare di tutta un'erba un fascio, giovani che invece si muovono, hanno progetti, collaborano. Certo che poi il dato aggregato resta, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, cioè di un tasso molto alto di NEET, ossia chi non studia, non si sta specializzando e non sta lavorando. Devo dare anche ragione ad alcuni ascoltatori che dicono, ma attenzione che soprattutto al sud molto lavoro in nero, lo sappiamo, questo ogni volta entra come tema, però dobbiamo anche attenerci ai dati ufficiali, o diciamo che la differenza è solo lavoro in nero, ma non abbiamo nessun motivo per dirlo, oppure c'è un tasso di sconforto, di inattività, di sfiducia e anche un po' di pigrizia più alto che nel resto d'Europa. Adesso però meteo, pubblicità, poi la borsa e poi una buona notizia, ossia ripartono i consumi della produzione industriale, non dei cittadini, ma gli ordinativi industriali, e se ne accorge anche il colosso mondiale della chimica nella sua sede controllata italiana. Ci sentiamo dopo il meteo. Sette 40 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non possiamo tornare sul tema dei giovani, vedo diversissime opinioni, starei cauto sulle generalizzazioni. È vero che delle volte i posti offerti sono posti di bassa qualità, è vero probabilmente, come dicono altri, che c'è anche meno fame o che ci sono stati errori nella scelta delle facoltà, riferito al dato sui laureati che trovano meno impiego rispetto ai diplomati. Insomma, a me quello che interessa però è il dato comparato, cioè l'Italia rispetto a Francia e Germania e soprattutto Gran Bretagna. Lì qualcosa non funziona, prometto che torneremo sul tema. Adesso però la borsa. Giornata leggermente positiva a Milano, più 0,16%, Parigi invece più 0,90%, Francoforte più 0,60%. E Londra più 1,11%, l'America guadagna lo 0,20%. Oggi a Milano pesa soprattutto l'automatica, che ha chiuso praticamente sui minimi, meno 4%. Lì c'è l'ipotesi di un ingresso delle Poste italiane nel mondo dei giochi, se ho ben capito. Guido Maurino, Radio Colli, sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora, partiamo dall'automatica, Guido. Sì, come dicevi tu, c'è l'ipotesi che Poste Italiane, ma anche Mondadori, operatori di telefonia mobile, possono entrare nel business del poker online e dei giochi online, per i quali ci saranno presto nuovi bandi per le licenze. E questo ha penalizzato molto oggi l'automatica, che proprio in questo settore è già presente e che quindi si prepara a dover accogliere nuovi protagonisti. Ecco. Sì, qui mi piacerebbe anche un giorno ragionare sul tema, insomma, o decidiamo che il gioco è legale, a questo punto non ha più senso le licenze sui casinò, perché insomma qui di fatto si sta aggirando quella che è una norma di legge, sappiamo tutti come funzionano le slot machine e anche il poker online. Boh, vabbè, vedremo se le Poste Italiane, che a mio avviso dovrebbero fare altro, però mi sembra che stiano facendo un po' di tutto, dalla Banca del Sud come banca di secondo livello alla concorrenza bancaria diretta, adesso anche l'ipotesi di entrare nel gioco. Va bene, UbiBanca -1,77%. Sì, dicevo che sono andati male tutti i bancari a livello europeo. Quasi tutti in Italia. Quasi tutti, perché pagano appunto la situazione pesante in Grecia. UBI ha ceduto l'1,77%, ma anche Unicredit ha ceduto lo 0,92%, Intesa San Paolo lo 0,4%, insomma il settore bancario è rimasto ancora abbastanza debole, ad eccezione del Banco Popolare. E Frattapasini ha escluso nuovi aumenti di capitale, ho capito bene? Sì, ma non c'è solo questo, c'è anche un'altra operazione che hanno annunciato oggi su alcune obbligazioni subordinate, un'offerta pubblica di scambio su alcune operazioni subordinate, che va a rafforzare la struttura patrimoniale dell'istituto di credito. E quindi questo, nell'ottica di Basilea 3, diciamo, è stato premiato dal mercato. Ancora bene, Diasorin più 1,87% dopo i dati trimestrali, Enel più 1%, reazioni su Parmalat dopo che il TAR ha bloccato, cioè ha lasciato alla Actalis la possibilità di lanciare l'opera e quindi bloccato il ricorso dei consumatori? Ma reazioni... Bocciato, scusami, non bloccato. reazioni diciamo poche, diciamo Parmalat aveva aperto in leggero calo, ha chiuso a più 0,46 a 2,62, comunque per tutta la giornata diciamo che è rimasta sopra il prezzo dell'OPA lanciata dalla Lactalis. Sopra il prezzo dell'OPA lanciata dalla Lactalis, staremo a vedere come finirà la vicenda. Tra l'altro segnalo oggi, visto che ce lo chiedono anche gli ascoltatori, tra i titoli minori si muove qualcosa. Intanto Monti Ascensori, so che è un titolo di cui non parliamo mai, però ha perso il 10%. Sì, ha perso il 10% perché dopo una giornata di sospensione dalle contrattazioni ieri, la società ha annunciato che ha rinviato l'approvazione del piano industriale e ha spiegato soprattutto che si trova in una grave crisi, per la quale ha anche dato mandato a un advisor per elaborare un piano di ristrutturazione aziendale e quindi insomma la situazione non è positiva per la società e oggi anche in borsa lo si è visto. Questo per quello che riguarda un titolo appunto sottile, ma che viene coinvolto da una ristrutturazione aziendale. Edes perde l'11,20%. Che è successo, gruppo immobiliare? Ma è un gruppo che da tempo sta perdendo quota, anche perché c'è una sorta di lacerazione all'interno fra i suoi azionisti su quali devono essere le strategie e il futuro della società, e nelle ultime sedute, anche se non ci sono notizie, come dire, da un punto di vista dell'azienda particolare, il titolo sta perdendo. Miglior titolo prima industria più 14,1%, Casa Damiani più 5,70%, F più 5,50%, EMS più 4,90%, Meridiana Fly più 4,6%. Novità su Meridiana? Allora, per quello che riguarda Meridiana, no, oggi non mi sembra ci siano grosse novità. La spiegazione è data soprattutto da una sorta di rimbalzo dopo ieri, che ieri aveva perso l'8%. Grazie Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore, il traffico. 17:48 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dicevamo che è passato un po' inosservato, perché c'erano le elezioni politiche, il dato molto buono dell'export italiano, le esportazioni a marzo più 14% rispetto all'anno prima, e molto bene alcuni settori, gli alimentari più 8%, l'elettronica più 16,7% e poi il 17% ha fatto la chimica. Allora parliamo di chimica. E allora parliamo di un settore di cui non spessissimo ci occupiamo, mi riferisco alla chimica, e lo facciamo con chi rappresenta chiaramente in Italia il colosso mondiale della chimica. Il colosso si chiama BASF, fa 109.000 dipendenti in 385 stabilimenti produttivi al mondo, sono 90 i paesi. Per la precisione, 57 miliardi di euro e, come diciamo, primo gruppo chimico al mondo. In Italia sono 12 società, 14 siti produttivi, o meglio 14 siti di cui 10 produttivi, il resto riguarda anche l'amministrazione. Cosa fa BASF? Dicevamo, colosso mondiale della chimica, prodotti chimici, prodotti per l'agricoltura, per edilizia e altro. I dipendenti in Italia sono 1.500. E allora siamo in collegamento, lo ringraziamo, con l'amministratore delegato di BASF Italia, Ervin Raue. Buonasera, dottor Raue. Buonasera a lei. Allora, ci dica una cosa, il 2010 e il 2011, perché al di là del settore, che è comunque un settore importante anche in questo paese, da voi arrivano dei dati che starebbero a segnalare una ripresa dell'attività economica. Mi dica il primo trimestre del 2011 e anche il 2010. Allora, il settore chimico ha tradizionalmente una funzione quasi anticipatoria dei cicli economici nel suo complesso. Nel 2010 il nostro gruppo è cresciuto del 26% a livello globale e di un altrettanto tanto significativo 28% in Italia. Questo che cosa significa in termini pratici? Significa che abbiamo praticamente superato in maniera direi molto brillante la crisi del 2009, siamo tornati a dei livelli produttivi e di utilizzo degli impianti sostanzialmente analoghi a livello globale ante 2008 e in Italia addirittura abbiamo superato quelli che erano i livelli del 2008. La stessa tendenza noi la rileviamo nel 2011, dove nel 2011 siamo cresciuti nel primo trimestre di un 25% a livello globale e in Italia il settore chimico è cresciuto addirittura di un 30%. Quindi mi scusi, più 30% nei primi tre mesi del 2011 rispetto al 2010 e più 28%, se ho capito bene, nell'intero 2010? Esatto. Quanto avete fatturato e con che utile nel 2010? Allora, nel 2010 in Italia abbiamo fatturato 2 miliardi e 800 milioni. Per noi la redditività a livello di singolo paese è poco significativa perché, essendo quotati su delle piazze internazionali, diamo dei dati di redditività accumulati per tutto il gruppo. E quanti sono gli utili del gruppo complessivo? Il gruppo ha fatto un reddito operativo prima di effetti speciali di 8 miliardi nel 2010, raggiungendo delle cifre di assoluto livello, le cifre più alte che abbiamo mai raggiunto nella nostra storia. Allora, più 30% nei primi tre mesi di quest'anno, più 28% l'anno scorso, è chiaro che quasi tutti i settori produttivi sono stati in recupero nel 2010 sul 2009, non tutti, anzi molto pochi, a dire il vero, sono riusciti a recuperare i livelli pre-crisi, invece voi sì. Secondo lei, come mai questa fortissima domanda, visto che è proseguita anche nel 2011, di prodotti chimici? Ma innanzitutto e quali, se riesce a dirci anche quali? Dobbiamo capire chi sono i nostri clienti. I nostri clienti sono le imprese italiane che sono tornate ad essere protagoniste nel commercio internazionale. In effetti l'Italia non ha perso posizioni nel commercio internazionale, è riuscito a mantenerle e questo dimostra anche che l'industria o il sistema produttivo italiano è competitivo a livello globale. Noi vediamo una forte richiesta di prodotti che entrano nelle varie filiere, qui possiamo citare tranquillamente i settori punta dell'Italia come il meccanico, come anche il chimico stesso, il settore dell'automotive, non dell'automobile solo come produzione di autovetture, ma automotive anche come produzione di parti staccate per il settore automobilistico. Tutti questi sono settori che hanno presentato dei forti recuperi e dove l'azienda Italia è tornata ad essere protagonista sui mercati internazionali. Non vorrei dimenticare quello che io chiamo l'alto di gamma nel settore, per esempio, tradizionale dell'industria italiana, il settore del cuoio, dei pellami e del tessile, dove vi è addirittura una delocalizzazione alla rovescia, nel senso che le produzioni a più alto valore aggiunto sono state reimportate in Italia, dove incontriamo le maestranze che riescono a fare questi prodotti con la qualità necessaria per poi essere trasformati in prodotti made in Italy che si posizionano in maniera inequivocabile a livello globale. Quindi interessante quello che diceva sull'automotive, ma anche e soprattutto sulla produzione alta del cuoio, pellame, calzaturiero, che è vero, lo abbiamo raccontato anche noi in questi mesi, in alcuni casi la scelta è stata netta, tornare a produrre in Italia, perché quando lavori su quella fascia così alta, il costo, il prezzo, diciamo, di costo non è così importante, è importante la qualità che offri, e allora lì per fortuna non c'è competizione con Cina o Turchia. Giusto per dare degli esempi, quali sono i prodotti chimici che più vendete all'industria, per capire, insomma? Allora, in questo momento, ad esempio, pensiamo al settore dell'automotive che anche lei ha citato, qui sono dei tecnopolimeri, cioè dei prodotti plastici ad alto valore tecnologico, pensiamo alle applicazioni nel settore motoristico con delle plastiche che reggono temperature superiori a quelle dei metalli, o anche indirettamente a tutto quello che va nell'aerospaziale, dove abbiamo delle soluzioni tecniche esattamente tagliate su questo. Altri settori molto importanti sono tutti quelli che consentono una diminuzione specifica di emissione di CO2, e qui penso anche ai materiali per isolamento termico, tanto importanti con i valori del petrolio con i quali siamo confrontati oggi, perché riuscire a isolare in maniera intelligente la propria abitazione consente di ridurre sia sui termini di riduzione del riscaldamento che del raffreddamento. Certo. E qui BASF offre delle soluzioni innovative prodotti. Questo lo immaginiamo, però per inciso, voi producete plastica che resiste a temperatura più del metallo? Sì, vi sono delle applicazioni per esempio nei turbo per i motori o nelle testate dei motori, nelle bacinelle di contenimento degli oli esausti che hanno delle performance e delle temperature e riescono a reggere superiore a quelle dei metalli. Cioè quanti gradi? Perché no, è una curiosità mia, guardi, non c'entra. Qualche migliaio di gradi. La plastica qualche migliaio di gradi. Dei tecnopolimeri con delle soluzioni molto specifiche. Un'ultima domanda, investiamo poco nella ricerca oppure l'investimento in ricerca in Italia non appare perché è fatto sotto altre forme, anche se vuoi per l'assenza di vantaggi fiscali in chi reinveste in ricerca? Ma si investe più di quanto si cita sui giornali, perché tradizionalmente molta della ricerca viene poi dopo spesata tra i costi di esercizio, viene inserita all'interno dei costi di esercizio. Diciamo che ci sarebbe necessario una maggior partecipazione anche delle università e dei sistemi più aperti, industria, università, per sviluppare ancora di più questa ricerca e queste eccellenze che nel paese comunque abbiamo. Grazie, grazie anche per questa ondata o ventata di ottimismo. Grazie all'amministratore delegato del BASF Italia. E adesso il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso dei traghetti, del caro traghetti. Non si placa infatti la polemica. Prima di tutto però, anzi facciamo una cosa, parliamo prima di traghetti e poi eventualmente parliamo di Europa, perché siamo un po' stretti con i tempi. Ci sono alcune dichiarazioni di Barroso, altre ve le abbiamo già ricordate. Barroso sulla Grecia, alla Grecia chiede che la ristrutturazione del debito non sia una scusa, Barroso è il Presidente della Commissione Europea, però dicevo, si va verso l'estate e la polemica sui traghetti non si placa e soprattutto sul caro traghetti, quindi i rincari nei prezzi dei biglietti. Eh sì, caro traghetti, ne parliamo da settimane e poi tutto ha avuto un'accelerazione nel momento in cui l'antitrust, ieri ve l'abbiamo raccontato, ha deciso di aprire un'inchiesta nei confronti delle compagnie che trasportano passeggeri da e per la Sardegna, e quindi Moby Line, Snav, Grandi Navi Veloci e Four Ship, che sarebbe Sardinia Ferries. L'antitrust vuole capire se c'è un cartello, un concerto, cioè se questi operatori si sono messi assieme per aumentare i prezzi. In media sono aumentati tra il 90 e il 110% rispetto all'estate scorsa. In alcuni casi si è arrivati anche al 150%, numerose segnalazioni di cittadini, di associazioni di consumatori, la di i Codacons che sono pronti a muovere una class action, quindi un'azione legale collettiva. Già a marzo segnalavamo, lo ha segnalato per primo, devo dire, Altro Consumo, un'offerta in Grandi Navi Veloci, Moby Lines e Sardinia Ferries con rincari di oltre il 70% a luglio e agosto sulle tratte Genova-Olbia, Genova-Porto Torres e Livorno-Golfo Aranci. Il risultato è chiaro, secondo i calcoli una famiglia di 4 persone con un'auto in viaggio da Genova-Porto Torres potrebbe spendere 1000 euro, cioè 400 euro in più rispetto a un anno fa. Anche Tirrenia, perché poi verremo al tema di Tirrenia, ha introdotto rincari tra il 25 e il 30% sulle rotte Civitavecchia-Olbia e Genova-Porto Torres. Per i non residenti, in alta stagione, Tirrenia, lo ricordo, è sotto privatizzazione. Ma insomma, vorremmo capirci qualcosa, anche perché mi sembra, insomma, questo è un paese in cui siamo abituati ai cartelli. Ma fare un cartello e quindi mettersi d'accordo per aumentare tutti assieme i prezzi in un settore che è diverso dalle polizze auto, le polizze auto sono obbligatorie, per cui uno, purtroppo lo sappiamo, l'antitrust e la Cassazione sono intervenute con le assicurazioni, con l'accusa di cartello, ma lì, tra virgolette, si capisce, tu sei obbligato a fare la polizza e io alzo i prezzi, questo vale anche delle volte per le bollette e per altri servizi. Un cartello su un servizio non obbligatorio, perché io posso andare in Sardegna o posso andare da un'altra parte, ci sembra molto più pericoloso anche puramente come logica di mercato. Ecco perché ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente di Moby Lines, Vincenzo Norato. Buonasera. Buonasera. Allora, prima considerazione, poi arriviamo al prezzo del petrolio e al resto. Ma insomma, vi rendete conto che se passa la logica e l'immagine del cartello, voi aumenterete anche del 70, 80, 90% i prezzi, ma io non sono obbligato a venire in Sardegna, posso prendere l'aereo, posso andare in un'altra località, cioè alla fine rischiate di risultare scottati voi stessi? Ma guardi, la domanda è una domanda intelligente, ma la risposta è assolutamente banale, perché altrimenti saremo degli stupidi. Il vero unico cartello che esiste in questo momento è quello delle compagnie petrolifere. Noi come Mobi, ritengo anche le altre compagnie, siamo fortemente condizionati dal prezzo del carburante. Io continuo a dire che un'ora, una sola ora di nave, di navigazione, su una delle nostre grandi navi per la Sardegna, una nave consuma 8.500 litri in un'ora, pari a 4.000-4.500 euro. Per cui è assolutamente per noi vincolante aver aumentato il prezzo del biglietto, anche se devo dire che quando si parla di incrementi percentuali, l'incremento percentuale fa clamore, ma è anche vero che oggi un Livorno-Olbia costa 48 euro. Da Milano, il passaggio ponte, da Milano in seconda classe in treno per andare a Roma se ne pagano 92. Vero è che l'anno scorso se ne pagavano 24. Se vediamo percentualmente, è il doppio percentualmente, ma in termini relativi è sempre molto basso. Sì, capisco il ragionamento, però ne parliamo dopo le informazioni sul traffico. Dati alla mano, tutti i servizi sono aumentati, tutti i servizi per la Sardegna e dalla Sardegna sono aumentati. E obiettivamente non riusciamo a capire, onorato, se tutto è merito o colpa, diciamo, del prezzo del petrolio. Ne parliamo dopo il traffico, perché i dati a noi che abbiamo in mano dicono che il petrolio costava di più nel 2008, quando però i traghetti per la Sardegna costavano di meno. Il traffico. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Allora, presidente della Mobi Lines, Vincenzo Onorato. Tutti i servizi sono aumentati, Genova-Porto Torres a luglio per una poltrona 327 euro, parlo dei vostri prezzi, 327 euro, il 130% in più, a luglio-agosto la cabina interna costerà 1100 euro, il 55% in più rispetto all'anno fa, il Genova-Olbia, sempre Mobi Lines, posto ponte il 54% in più. Voi dite il prezzo del petrolio, allora facciamo un rapido conto, adesso il prezzo del petrolio è a 100 dollari al barile. Con il cambio 1,40 siamo a 70 euro al barile. Ad agosto 2008 il petrolio era a 148 dollari al barile, con il cambio di allora quasi 1,6, 1,5 qualcosa sul dollaro, valeva 93 euro. Ossia ad agosto 2008 un barile costava 93 euro, ad agosto, aprile del 2011 costa meno, molto meno, 69 euro. Le chiedo come mai allora i biglietti costano più adesso rispetto al 2008? Ma guardi, se lei vede la stessa storia della benzina, cioè quando parliamo di barile, il barile ha delle flessioni, ma le flessioni sul prodotto che noi usiamo sono assolutamente minime, e questo chiaramente incide. Io l'ho detto all'inizio dell'intervista che il vero cartello di cui si deve parlare è quello delle compagnie petrolifere, che da ovunque si vada non ti fanno risparmiare un euro. Ricordo, per dare una dimensione del problema, che una tonnellata, cioè 1000 litri di carburante, costano a noi circa 500 euro e queste navi ne consumano 8 tonnellate e mezzo l'ora, e questo è un dato imprescindibile e che chiaramente ha creato nella Mobi una considerevole perdita di bilancio nel 2010. Noi purtroppo chiuderemo un bilancio del 2010 pesantemente in rosso, e ritengo anche nelle altre compagnie. Quindi, insomma, lei, io ci conosciamo da tempo, è stato nostro ospite già altre volte, io mi fido, per carità. Voi dite tutto quello che abbiamo scaricato sul biglietto è solo quello che paghiamo in più di petrolio? Ma guardi, io vorrei sfatare anche un altro mito. Il mio interesse come armatore è portare i passeggeri in Sardegna, no? Non portarli, cioè sarei autolesionista. La mia famiglia collega la Sardegna al continente da 100 anni, sono 4 generazioni, cioè non c'è nessun interesse da parte nostra che non coincida chiaramente, inequivocabilmente, con l'interesse economico della Sardegna. Soltanto che però noi abbiamo vincoli di bilancio, e le ripeto, purtroppo basterà andare a leggersi il bilancio 2010 per rendersi conto della gravità. della situazione. Non è che con le accuse della Sardegna nei nostri confronti si risolve il problema. Il problema bisogna risolverlo alla radice, come è stato fatto in altre nazioni, come in Francia per la Corsica o in Grecia, ma in Italia al momento il problema non è affrontato. Mi scusi l'ignoranza, ma cosa è stato fatto in Francia per la Corsica? Ma per esempio la Francia per la Corsica riconosce a tutte le compagnie che collegano il continente francese con la Corsica 12 euro a passeggero trasportato per calmierare i prezzi, e chiaramente ponendo delle limitazioni alle tariffe ai vettori che beneficiano di questa sovvenzione. In Grecia un provvedimento, perché anche le compagnie greche sono pesantemente in rosso, per limitare i prezzi è stato quello di detassizzare completamente il trasporto marittimo insulare. Cioè, sono dei provvedimenti chiari, inequivocabili, che cercano di far fronte a questo caro carburante. Ma, ripeto, l'origine di tutti i mali è lì. E a chi dice che in realtà questa è la conseguenza di una Tirrenia meno aggressiva, visto che è sotto privatizzazione, quindi scompare come concorrente, un concorrente inefficiente, perché l'abbiamo raccontato molte volte, che la Tirrenia perdeva bocca di barile, però probabilmente c'è chi sostiene che avesse un effetto anche di calmiere, di riduzione sui prezzi. Ma guardi, questa domanda mi rende veramente felice, perché hanno parlato di noi tre armatori, la cordata CIN, come degli speculatori che desiderano acquisire la Tirrenia. Io vorrei ricordare che Tirrenia significa per noi un investimento complessivo di 380 milioni di euro. Ci prendiamo 1500 marittimi. Se stiamo facendo questa operazione, lei non ci crederà, è perché siamo tutti e tre gli armatori a Ponte, Grimaldi e Rio, armatori di origine napoletana. E la maggior parte di queste persone che lavorano in Tirrenia sono napoletane. Dal punto di vista meramente speculativo, se fossimo tali, lasceremmo la Tirrenia fallire, perché nel momento in cui la Tirrenia fallisce si aprono per noi delle quote di mercato in automatico. Per cui la visione, la lente di ingrandimento sotto il quale noi siamo stati posti è totalmente sbagliata. Ultimo aspetto, Vincenzo Onorato, ed è la reazione della Regione Sardegna. Io faccio riascoltare, l'abbiamo già fatto ascoltare altre volte, quanto ha dichiarato la settimana scorsa, ospite appunto di Oscar Giannino, Ugo Cappellacci, presidente della Regione Sardegna, che ha lanciato questa iniziativa, cioè dei traghetti a prezzi calmierati che dovrebbero fare concorrenza a voi. Mi sembra che siano quattro navi. Per ora sentiamo Cappellacci. Noi riteniamo che si siano violate le regole del libero mercato, e l'intervento della Regione non è un intervento che vuole ripristinare il cosiddetto servizio pubblico onerato o che in qualche modo altera i meccanismi del mercato, perché noi abbiamo deciso di partire intanto in via sperimentale, questo è importante dirlo, lo facciamo attraverso la nostra controllata che è la società Saremar, che sino ad oggi si è occupata dei collegamenti da e per la Sardegna e le isole minori, e che però a norma e statuto può svolgere anche collegamenti con la penisola. Noi lo facciamo con un meccanismo che intanto si basa su un principio, contabilità separata, per dimostrare la sostenibilità dell'iniziativa. Riteniamo cioè che l'iniziativa si regga sulla base delle regole del mercato, con l'incontro tra domanda e offerta, e che sia possibile chiudere con equilibrio di bilancio. Abbiamo dato mandato alla Saremar perché avviasse tutte le procedure per coprire due almeno fra tre tratte che abbiamo indicato, che sono le tratte che collegano la Sardegna nord-orientale con l'Italia centro-meridionale e la Sardegna nord-orientale con l'Italia centro-settentrionale, oltre che Sardegna nord-occidentale con l'Italia settentrionale. La Saremar interviene sul mercato attraverso il nolo cosiddetto armato delle navi, che vengono reperite attraverso l'utilizzo di broker specializzati, e cerca di intervenire ripristinando quelle regole, o meglio quelle condizioni che vigevano sino all'anno scorso, a due anni fa, e che erano condizioni che noi riteniamo siano assolutamente sostenibili. Questa iniziativa da un lato tenta di trovare una soluzione, dall'altro, mi rendo conto, ha un po' rallentato il processo e le prenotazioni. Posso dire che dal 15 di maggio, quindi tra 5 giorni esatti, sul sito della Saremar sarà possibile effettuare le prenotazioni per questo nuovo tipo di offerta. E quindi da tre giorni praticamente, due giorni è possibile prenotare sul sito della Sale. Ma Vincenzo Donato, lei si è molto arrabbiato per questa decisione, perché? Guardi, io non desidero commentare per non alimentare la polemica, desidero solamente ricordare che quando la Tirrenia ha sospeso il collegamento quest'inverno Genova-Olbia, noi l'abbiamo sostituito immediatamente con una nave che portava una perdita di esercizio giornaliera di 80.000 euro, soltanto per la sensibilità di non interrompere i collegamenti Sardegna-Continente. Fare un'operazione di questo tipo per tre mesi è un'operazione che comunque si chiuderà con una perdita di esercizio. Perdita di esercizio che bisognerebbe domandarsi chi andrà a coprire. Beh, i cittadini sardi, immagino, perché i soldi sono della Regione Sardegna. Ma lei ritiene che vi siano anche gli estremi per fare ricorso all'Europa? Ah, ma certamente, perché non possono essere usati soldi pubblici per un'operazione di questo genere. Senta, onorato, per concludere, come ne usciamo? Cioè, voi riuscite a trovare delle soluzioni? Oppure, me lo dica anche tranquillamente, se questi sono i vostri costi di esercizio, ci rassegniamo a sapere che i traghetti costeranno appunto tra il 40 e il 70, c'è cioè chi dice arriva al 110, in alcuni picchi al 150%. Guardi, noi siamo aziende private, chiaramente la MOB è un'azienda privata, noi non certamente possiamo chiudere un bilancio con una pesante perdita di esercizio, non possiamo chiudere tutti i bilanci. E sotto questo punto di vista abbiamo dei vincoli importanti che dobbiamo rispettare. Purtroppo in questa situazione, con questo livello di carburante, noi non possiamo fare diversamente. È stato più difficile rinunciare alla Coppa America o gestire questa vicenda? Questa è una domanda divertente, Dan, ma in entrambe c'è grande passione, perché io amo profondamente la Sardegna e mi piace vivere lì, e quindi mi crea molto più dolore questa situazione che la rinuncia a una gara sportiva. Grazie, speriamo, io non vedo, ma lo capisco benissimo, non vedo molte altre possibilità se questi sono i prezzi del petrolio. Grazie comunque per la disponibilità e anche per la franchezza, Vincenzo Onorato, presidente di Mobilines. Grazie a lei, a presto, arrivederci. Ci avviamo alla conclusione. Ho girato anche molte le domande che arrivavano dagli sms al 349-238-6666. Una precisazione però, insomma, gliel'abbiamo chiesta tre volte a Onorato il perché se il petrolio è più alto. Lui ha spiegato che il petrolio che loro comprano non è la quotazione del barile, è quella sui mercati, è un altro tipo di petrolio. Sullo sfondo, secondo me, qui rischiano, e mi sembra di averlo fatto capire anche a Onorato, rischiano di perdere tutti e due, cioè noi come possibili clienti dei traghetti per la Sardegna e le compagnie marittime. A giudicare infatti dai messaggi che arrivano, molti stanno seriamente pensando di non andare in Sardegna con questi prezzi. Molti fanno dei paragoni anche sui costi delle tratte per la Corsica, 300 euro in 5 a metà agosto, quindi un terzo quasi quanto non si pagherebbe con questi traghetti. Io mi auguro che non sia così, ripeto, temo però che forse il danno o la beffa sarà peggiore del danno per le compagnie di trasporto. Avranno meno clienti e forse gli sarebbe convenuto perdere qualcosa in più sui biglietti, ma avere qualche cliente in più, perché poi i clienti non pagano sui biglietti, consumano all'interno di un traghetto. Staremo a vedere a fine della stagione. Tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente. Cerved Group, il punto di riferimento per un business sicuro e competitivo. Vi ha presentato Focus Economia.